la mia casa, un luogo tranquillo, un rifugio da magari da giornate difficili, un luogo dove ti rilassi, dove c'è il mio gatto che fa le fusa. Sentirsi parte di quel luogo. Casa è un posto dove stai al sicuro e non ti senti discriminato da nessuno. Per me casa è famiglia. È un posto dove posso stare da sola e nessuno mi deve È il luogo in cui posso spogliarmi sia a livello di vestiti che a livello proprio emotivo. Meditazione. È il posto dove sono circondata di tutte le cose che mi ricordano quello che sono stata, quello che erano le altre persone, un posto di intimità. Per me è casa dove ci sono gli animali, ne ho 7 a casa. Non solo un luogo fisico, ma anche quelle persone con cui ti trovi bene. Sentirsi parte. Dare la propria anima al luogo stesso. L'odore del mare. È un luogo, è un punto di riferimento. E la casa è importantissima. Sì. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50 minuti di riparazioni. Buongiorno. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di 50 minuti di riparazioni all'unisono. 50 minuti di riparazioni è il nostro programma con cui siamo da poco approdati su Radio Città Fujiko. E con cui ci troverete in onda quando, Leo? Ogni venerdì alle 10.30. Fino alle? 11.30, 11.20, insomma, 50 minuti. Noi siamo Giulia Quadrelli. E Leo Merati. Normalmente forse ci conoscete per Narrando Boy, in questo caso stiamo invece facendo parte di un grande progetto dell'Accademia di Belle Arti che si chiama Riparazioni, con cui l'Accademia in queste settimane, in questi mesi, sta entrando in dialogo con il quartiere che la ospita e sta proponendo tantissimi eventi, laboratori, mostre, conferenze, chi più ne ha più ne metta, tra cui un bellissimo programma radiofonico. Il nostro. Ricordiamo, prima di andare al sodo, che chi di voi ci ascolta e avesse voglia di interagire con le nostre puntate può sempre, quando vuole, scriverci all'indirizzo mail riparazioni@abavo.it. E arriviamo però al dunque della nostra puntata, questa prima puntata tematica che, come forse avete capito, intuito dalle voci che hanno aperto il nostro programma, riguarda una questione abbastanza centrale del quartiere dell'Accademia di Belle Arti. Però non la vogliamo svelare subito, perché vi abbiamo sempre raccontato nelle anteprime, gli antipasti di questo programma, che la peculiarità di 50 minuti di riparazione è che è stato realizzato da noi insieme ad alcune studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Esatto, con noi c'è qualcuno oggi. In carne ed ossa, sì, un esemplare di studentessa. Ce l'abbiamo qua con noi, la vogliamo presentare? Signore e signori, accogliamo con un grande applauso Valeria Scardino. Applauso. Ciao a tutti, grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti. In arte Scalofa. Scalofa. Ti piace? L'hai detto bene. Scalofa. Sì, beh, è così che firmo la mia arte, le È mie bolognese sculture. Scalofa? No, proviene dall'est. Proviene dall'est? Esatto, un nome datomi da un amico. Da un amico. Esatto, dell'est. Quindi è il nome con cui firmi le tue opere? Esatto. Perché noi vi abbiamo conosciuto per preparare 50 minuti di riparazioni, non vi conosciamo tanto come artisti. Non sappiamo niente di voi. Di voi, assolutamente. Noi come artisti no, esatto, non abbiamo neanche mai approfondito questo argomento, però io sono formata come scultrice. Come scultrice? Sì. Ah, che meraviglia. Solo da quest'anno mi sono dedicata più invece alla didattica. Ed è infatti il motivo per cui sei qua esatto, oggi. Poi faremo un'altra puntata sulle tue sculture. Volentieri, magari. Ci sto. Ma andiamo subito a pesce, si può dire? A scultura. Aspetta, a scultura. Ah, scusa, non avevo capito. Sono un po' semplice. Scalofa. Vabbè, Leo, però parole in libertà, non confondiamo. Andiamo a capire qual è la tematica a cui dedichiamo oggi 50 minuti di riparazione. Sì, il tema di oggi che abbiamo scelto è l'abitare. Abitare la città, abitare la casa, abitare lo spazio, anche i diversi pianeti. Abitare nel senso di sentirsi a casa in un luogo e sentirsi padroni a proprio agio in un posto. Ma anche abitare Bologna, questa città è quella che in questo momento ci accomuna tutti e tutte, dove abbiamo trovato casa nella migliore delle ipotesi. Non tutti riescono con facilità a trovarla. Esatto. E trovato casa in senso fisico ma anche simbolico e dove per il momento abbiamo deciso di rimanere. Ascolta, ricordiamo a chi ci sta ascoltando che parliamo di queste tematiche sempre in relazione a quello che è il quartiere dell'Accademia di Belle Arti, quindi quando parliamo di abitare casa, un po' la nostra puntata ricordiamo che è stata costruita indagando le strade che stanno attorno all'Accademia. Nello specifico via delle Belle Arti, via del Guasto, piazza Pontoni e piazzetta Raviola. Sta piazzetta Raviola dedicata al fumettista Magnus che è un po' il palcoscenico di tutti gli eventi di riparazioni. Ma a proposito di abitare, c'è una frase che mi ispira molto, l'ho un po' riadattata dal libro Elogio al margine di Bell Hooks, ve la vorrei citare. Leggicela, diccela. A volte casa è in nessun luogo, a volte si conoscono soltanto alienazione e straniamento. Allora casa non è più un solo luogo, ma tante posizioni, quello spazio che potrebbe rendere possibili e favorire prospettive diverse in continuo cambiamento. Uno spazio in cui scoprire nuovi modi di vedere la realtà e le frontiere della differenza. E proprio parlando di differenza, scoprendo un po', esplorando questo quartiere dove fra l'altro anche io ho studiato, quindi un po' di tempo fa, ma ho avuto la stessa vostra prospettiva, è un quartiere dove si mescolano tanti mondi diversi, tante proprie differenze, perché si va da case di lusso, e delle ville, possiamo dire signorili, ma poi appartamenti in affitto per studenti, zone occupate, come proprio in questo periodo, sappiamo anche dalla cronaca di Bologna, queste strade sono un po' al centro di una grande protesta che stanno facendo studenti e studentesse piantando le tende per protestare contro i terribili affitti di questa città. Poi ci sono anche delle visuali particolari dell'abitare questa città, per esempio quelle di chi guarda le strade dall'alto, chi guarda le strade dalla sua finestra. E chissà che cosa vedono tutte queste persone. Infatti noi con questa domanda siamo andate un po', tu in particolare, sei andata? C'ero anche io. Dai, c'eri anche tu, me l'ero dimenticato. Sì, c'ero anch'io insieme a Valeria. Allora cosa avete fatto? Raccontatecelo, siete andati a conoscere chi? Siamo andate a conoscere una persona che dalla sua finestra ha una prospettiva veramente molto particolare ed interessante. Vede dall'alto, ma dobbiamo già dire che cosa o aspettiamo? No, aspettiamo. Volete dire il nome suo intanto oppure diamo la possibilità a Valeria di fare una presentazione poetica? Perché abbiamo scoperto in queste settimane di lavoro assieme che Valeria, detta anche Scalofa. È una grande scultrice sulla parola, perché abbiamo detto che non lo sapevamo ancora. È una grande studentessa, ma è anche molto poetica nel suo scrivere. E quindi sentiamo un po' la presentazione che ci fa della nostra prima ospite. In una giornata di sole primaverile ci sono poche importanti cose da fare. Una è sicuramente quella di essere improduttive ai Giardini del Guasto, il parco urbano costruito sulle macerie di Palazzo Bentivoglio. Quei 3.000 metri quadri di alberi e cemento tra Via Belle Arti e Largo Respighi. Il luogo accoglie tutti noi in connessione fraterna, tra studenti, eroinomani, perditempo e lavoratori part-time. Davanti a me la finestra aperta di un palazzo. Alla finestra sola una donna mi saluta. Da dove si affaccia vede tutto, vede tutti, vede ciò che cambia e ciò che resta. Lei è la signora Antonella, arrivata dal pianeta Guasto, per ricordarci quanto la creatività ci salverà. La signora Antonella, infatti, non fa un lavoro come gli altri. Lei insegna ai bambini la bellezza e la gioia di divertirsi, contro ogni inceneritore della creatività. Da tempo cura gli eventi dell'Associazione Giardino del Guasto, che organizza iniziative culturali, artistiche e musicali, senza scopo di lucro, con l'unico scopo di ripopolare la zona, viverla e farla nostra. E l'avevo detto che le sue parole sono poetiche. Sono scultore, direi. Bravo, questa è bella, questa è molto bella. Ci hai pensato dall'inizio della puntata, solo sì, per sì, arrivare, proprio arrivare a questo momento. A utilizzare l'aggettivo scultoreo. Quindi ci andiamo a ascoltare la chiacchierata. Ma vorrei dire solo una cosa prima di ascoltarla. Cioè, comunque io ho partecipato a questa conversazione fra Valeria e la signora Antonella un po' come un testimone, diciamo, un testimone silente. Un ascoltatore. Sì, un ascoltatore che ha registrato ed è un dialogo molto intimo e tranquillo su un terrazzo di Valeria e la signora Antonella. Le mie tre finestre danno sul giardino. Proprio sul giardino del guasto, quindi che cosa puoi vedere, cosa hai visto e cosa continui a vedere dalle tue finestre? Ma io continuo a vedere la vita, nel bene e nel male l'ho vista, per cui cioè, è una grande fortuna abitare nel centro storico ed avere una visione che è fatta di natura prorompente, perché abitando all'ultimo piano io becco gli alberi completamente. Poi se mi affaccio vivo quello che c'è all'interno del giardino. La flora e la fauna. Quello spazio lì ha vissuto un periodo molto, molto faticoso legato alle fragilità che lo frequentavano, però negli ultimi anni credo che invece sia un luogo realmente più di incontro che di conflittualità o di persone che non possono stare insieme. Quindi si è evoluto tanto, sì, nel tempo? Sì. Ok, so che c'è qualcuno comunque che gestisce, ho visto un ragazzo che... Allora, noi siamo, è un'associazione che nasce nel 98 e l'associazione nasce per riqualificare quello spazio pubblico che è nato nel 1973. Mm-hmm. Negli anni 80, dopo... c'è stato un attimo di riflusso da quello che era stato il movimento studentesco del 77-78 e entra molto il consumo di eroina in questa zona e il Giardino del Guasto diventa uno spazio che viene soprattutto vissuto per vivere quell'esperienza. E fino negli anni 80 c'è questa situazione di grossa fragilità e il giardino a un certo punto viene chiuso dal comune per un tot di anni e è vissuto soprattutto dalle persone che facevano uso e consumo di sostanze. E nel 98 noi abbiamo fatto un progetto per richiedere la riapertura di questo spazio. In quegli anni fu difficilissimo, nei primi anni in cui ho aperto era difficilissimo convincere il ragazzo che usava la fontanella perché c'era l'acqua. A Bologna ce ne sono pochissime. Infatti, di fontanelle sì, in giro, no? Quindi la fontanella lì, quindi lui arrivava, si doveva fare la sua siringa e io gli dicevo scusa, non ci sono i bambini, dovrebbero arrivare i bambini. E lì la reazione era quella, prima io mi faccio e poi tu mi dici di andare via. Quindi nei primi anni è stato difficile, no? Per fortuna in questi 23 anni non abbiamo mai portato nessun bambino al pronto soccorso, non vietandogli camminare scalzo nel giardino, perché abbiamo sempre creduto nella selvatichezza, no? Di questo luogo in cui i bambini si possono riappropriare quello che gli manca nella città. E ho visto anche, per come ho vissuto il Giardino del Guasto, che ci sono state tantissime iniziative che avevano come tema cardine l'arte e la musica, soprattutto con i concerti che avete fatto, e anche queste comunque sono azioni di riparazione per il quartiere. Ma secondo me sì, sono riparazioni per il quartiere, però sono anche, mi viene da dire, linfa vitale per una futura crescita di cittadini che sono i bambini, per cui se tu non abitui i bambini fin da quando sono piccoli alla bellezza, all'ascolto della musica, all'opera d'arte che non so che può nascere attraverso un graffito che loro vedono nascere, no? E seguire dentro al giardino, è l'unica la cosa che, ecco, quella forse è una cosa importante, è questa nostra disponibilità ad ospitare realtà che, non so, ti chiamano, ti dicono: ah, noi potremmo venire a fare questa cosa. Sì, sì. Puoi fare questa, sì, no? Mm-hmm. Cioè che non c'è questa chiusura, no? O facciamo le cose solo con questi che sono amici nostri e tu no. Che bella questa chiacchierata, grazie Valeria. È sempre Valeria. Un piacere incontrare la signora molto, Antonella. Molto brava. Speriamo che ci stia ascoltando la signora Antonella. Ma sì, che dopo la andiamo a chiamare. Dopo andiamo a scampanellare. A scampanellare e scappiamo. Perché siamo, lo ricordiamo, proprio all'angolo. Praticamente sotto casa sua. Esatto, all'angolo fra via Belle Arti e via del Guasto, quindi sotto al giardino del Guasto di cui la signora Antonella ci ha raccontato. Bellissima intervista. C'erano anche le campane. Le campane, le dita della signora Antonella sul tavolo. Senti come non ti scappa neanche un suono. Niente. A proposito di suoni, credo che sia arrivato il momento di citare quella persona. Di citare quella persona di cui leggenda. Non sentirete mai la voce, l'unico in Italia. Sentirete parlare di questa persona ogni puntata. Perché è colui che ha scelto tutte le tracce musicali che noi trasmetteremo durante le nostre puntate. Vuoi dire tu, Valeria, il suo nome? Certo, lui è il nostro amico e compagno Daniele Di Feo, in arte Diff, che è il nostro direttore artistico musicale di 50 minuti di riparazioni. E che cosa ha scelto per noi? Ci ha scelto un pezzo così per aprire alla grande degli Eels, che credo voglia dire anguille, che si intitola Last Stop This Town. Ed eccoci qua, siamo ritornati. 50 minuti di riparazioni qui su Radio Città Fujiko. In compagnia di Valeria Scardino, che in è la nostra... Scalofa. Dillo che ti piace sentire Scalofa tutta la puntata. Abbiamo coperto una puntata con Scalofa. Ma chi è? Scusate, un attimo che... Chi è? Permesso. No, ma come permesso? Guardi che stiamo registrando una puntata radiofonica. No, lo so che... ha maggior ragione. Mi hanno detto di venire qui. Mi hanno detto, vai lì alla radio. Ma chi gliel'ha detto? Me l'hanno detto della gente importante. Ma chi? Della gente importante? Chi? Sì, sì. Via, della direzione dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Lei c'entra con l'Accademia, allora anche noi. Sì, sì. Vabbè. Lo so, ho mandato qui a lavorare, ho detto, vai lì a lavorare. Non c'aveva la faccia. Lei lavora per l'Accademia? Purtroppo. Non per l'Accademia, ci mancherebbe posto, no, è questa questione del lavoro un po' per me difficile da trovare. Sì. No, vabbè, quello non lo so, io non ho mai cercato, però primo che ho trovato. È difficile lavorare in generale. Sì, dice che è stanca, Mia madre dice sempre proprio, lavorare è stanca. Ma c'è chi dice che nobilita l'uomo. No, quella per quello serve un attestato che almeno da tot generazioni qualcuno ti ha dato. Però un lei pezzo è informato sul tema. Vabbè, chi è lei? Scusa. Duccio mi chiamo. Duccio come? Beh, Duccio come mi pare a me, come? Che domanda è? Educato. Non ho capito però perché l'Accademia l'ha mandata qua da noi che lavora. Ah, giù, hai ragione, sì. Faccio l'assistente alla didattica. Ah, lei fa l'assistente alla didattica. Accademia. Valeria Scardino la conosce, non l'ha mai vista, lei è una studentessa. Ma neanche io la conosco. No, ho capito, quindi lei deve fare, e la deve fare proprio con noi. Sì, sì, mi hanno detto vai lì alla radio. Perché lei sa fare radio? No, in realtà no. Non sapevano dove mandarla praticamente. Disperato. Io gli ho detto, loro mi hanno detto, ma a te che specifiche hai? Io gli ho detto, boh, mi piace fumare le sigarette, stare seduto. E l'hanno mandato qua da noi. E mi hanno detto, vai alla radio che devi stare seduto. Sì, però non si può fumare. Però non si può fumare. Non si fuma, però. Vabbè, io già qui... Ci licenziano tutti se lei si mette a fumare. Comunque, non riesco a capire bene, lei è una persona un po' strana, c'ha un accento un po' particolare. È toscano? No, veramente sono di Lucca. È la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, per fortuna. Anche come se, vabbè, fortuna. Probabilmente adesso è un po' la stessa cosa. In che senso? Vabbè, è successo un po' un patatrack, un casino. Di che tipo? No, che in pratica io prima io ero importante, ma a Lucca intendo, ma parecchio. Cioè ero tipo, insomma, lì dicono che era una repubblica, in realtà io ero un po' il capo. Guardi, lei è un po' confuso, dicono che era una repubblica diversi secoli fa. Ma io sono arrivato qui da due settimane e c'era la Repubblica. Poi appunto se è arrivato, sono arrivata sta gente a casa mia, mi hanno detto, oh, ma senta, ma lei, ma li vuole tutti questi soldi? Io, quanti sono? Tanti, ma tanti qua, te, lei si fidi, mi hanno detto. E io ho detto, ma va bene, cioè che devo fare questi soldi? Mi hanno detto, devi firmare sto foglio. E l'ha letto prima? Gli ho dato un occhio, ho visto Firenze, queste cose qui, ho detto vabbè, via, firmiamo di solito, no? Uno via. Vedi Firenze, firmi, no? E ha firmato? Ho firmato, in pratica ho scoperto che avevo venduto la città un po' lì al Granducato di Toscana, infatti poi la sera sa come fanno il popolo. Ma come fanno? Ma quale popolo? Quando scopre questi cittadini che ti arriva sotto casa con i forconi, con le cose, e poi te li mandi gendarmi con i cavalli. Che li, ma lei ha preso qualcosa? Con le mangare, vabbè, che, comunque, insomma, a parte quelli erano lì tutti arrabbiati così che mi volevano tipo... fare una festa, diciamo. Ti hanno fatto la festa? Cioè. Sì, poi per fortuna il mio maggiordomo Natale mi ha preso. Ma perché lei adesso ci fa credere che è anche un maggiordomo. Beh, per forza quel maggiordomo, cioè ora non è che una casa con 70 stanze si tiene da sola, cioè ci vuole il maggiordomo. Ah, scusi. Mi ha preso, mi ha portato via, siamo finiti a Bologna, che lui c'ha la famiglia, ma adesso viviamo in Bolognina. Vabbè, una bellissima zona, una grande rinascita. Con la Bolognina. Con 70 stanze poi, esatto. Mezza Bolognina in pratica. No, ora non abbiamo 70, ora ne abbiamo 4. Quattro? Comunque, io caspita. Ho proprio giusto il posto letto. Non so, vabbè, importante. Bagno privato, una roba terribile. Come una roba terribile, anche il bagno privato. Non riesco neanche a respirare. Tant'è che infatti poi ci sono stati un po' di dissapori tra me e il mio maggiordomo. Non so, ancora un po' un servitore. Infatti mi ha detto vai a lavorare perché non ti voglio più in casa e ti ritrovo una casa. Che la sta buttando fuori di casa. Sì. Come si chiama il suo maggiordomo? Natalio. Un bel nome, Natalio. Bravissima persona. Sì, tranne che la sta buttando fuori di casa. E quindi l'ha mandata a lavorare in Accademia di Belle Arti? Sì, mi ha detto, lavori poco, guadagni tanto. Io ho detto, va bene. Ma questo, questo non lo so. Ma intanto che pensiamo a questa perla che ci ha dato per capire se è o meno una perla, facciamo una cosa, rimanga con noi, signor Duccio, lanciamo la pubblicità. Eccoci di nuovo qui dopo la pubblicità, sempre in compagnia di Duccio da Lucca, assistente alla didattica. E, insomma, lei è qua per darci una mano, un po' per... No, io sono qui per lavorare. Sì, non appunto. Per lavorare. No, ma dare una mano nel senso che ci aiuta, sì, con il programma. Insomma, è un po' il nostro servizio, mi sembra di capire. È un po' il Natalio di 50 minuti. Per lavorare. Lei la trova un po' confuso sul vocabolo lavorare. Comunque, diciamo così, prendiamo due piccioni con una fava. Uniamo l'utile al dilettevole. Noi stiamo affrontando una puntata intorno al tema dell'abitare. Ora, mi sembra che la tocchi questo tema, perché prima c'era una casa di 70 stanze, o parecchio. Ora la buttano fuori di casa. Allora, se ci fa questo favore, si mette un attimo lì nell'angolo in redazione, ci fa un po' di ricerca, ci trova magari qualche annuncio immobiliare legato a questo quartiere. Sento qualche amico. Sì, insomma, so che amici ha lei, però... Ma c'ho amici miei, scusi, che discorso è? Lei che amici ha? Ho dei meravigliosi amici. Saranno i suoi, vabbè. Ma fa così, ci trova qualche annuncio immobiliare della zona, così possiamo leggerlo qui alla radio e dare magari un aiuto a chi sta cercando casa, studentesse e studenti. Prova per studenti, insomma. Sì, c'è una cosa adeguata. Sì, ci sono tutte le proteste, qualcosa che, con un affitto moderato. Va bene, ci dà una mano. Quando ha finito, grazie, torna e li leggiamo in puntata. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Anche lei ha detto un po' spaventato. Buon lavoro. Bella idea questa di farci aiutare a cercare qualche annuncio immobiliare. E ti piace questo Duccio che ci è stato mandato qua dall'Accademia? Sì, mi sembra un po' che arrivi da un altro pianeta, però vista la situazione, una mano in più può, una mano in più essere può sempre essere utile. E andiamo avanti con la nostra puntata, perché ci aspettano ancora degli altri ospiti da intervistare. Sempre intorno a questo tema dell'abitare, che, lo ricordiamo, l'abbiamo detto in apertura di puntata, in questi giorni nel quartiere dell'Accademia dell'Università è proprio un tema molto caldo, perché ci sono fior fior di studentesse e di studenti che proprio hanno piantato le tende per protestare contro degli affitti che effettivamente, esatto, nelle, sì, città universitarie più grandi d'Italia sono inaffrontabili, spropositati delle singole a... Qual è la camera più cara che hai pagato, Valeria? Ma 400 euro, la singola, spese escluse, wifi escluso, bagno escluso, finestra esclusa, camera esclusa, ho capito. E quindi proprio su questo tema e su questa grande fatica del trovare casa in questa città, abbiamo adesso un ospite che ci racconta un po' la sua odissea che ha affrontato qua a Bologna per trovare una stanza. Facciamo così, presentala sempre tu con il tuo linguaggio un po' poetico e dopo la cogliamo insieme. Spostarsi tra vari luoghi del mondo in cerca di esperienze nuove. Muoversi nello spazio cercando un futuro diverso e migliore. Ritrovarsi su un pianeta nuovo senza sapere se il territorio ti accoglierà o respingerà. Zaino da trekking e marsupio per un improvviso arrivo in via Ernerio, quel fiume di cemento di un chilometro dove in tanti trovano alloggio in affitto. Questa è la situazione vissuta anche da Lisa, studentessa del primo anno del biennio di didattica dell'arte presso la nostra Accademia di Belle Arti di Bologna, condivide casa con altre 5 persone. Una scelta forse non rimpianta, ma sicuramente imposta. Questa città vive soprattutto grazie agli studenti, ma a quale prezzo? E allora, benvenuta Lisa, grazie benvenuta per essere Lisa. Qua con noi. È un piacere averti qui. Ciao a tutte, grazie. Ciao. Valeria, non so se l'abbiamo detto, lei è una vostra compagna di corso, no? Sì, è una compagna del nostro corso in Accademia di Belle Arti, quindi ti ringrazio anche io molto per essere qui ed aiutarci a portare fuori un tema molto sentito, soprattutto nell'ultimo periodo. Adesso abbiamo un po' di domande da farti, Lisa. Eccoci, sono qui per voi. Perfetto, ti chiedo, da quanto sei a Bologna E dove vivi? Sono arrivata a Bologna a fine ottobre, inizio novembre, e al momento vivo in via Irnerio. Qua proprio... dietro, a due passi da dove siamo noi proprio. E com'è stata l'esperienza di cercare casa qui a Bologna? È stata davvero traumatica, direi difficile, un girone infernale intenso. Ah, ecco. Però un girone infernale? Sì, sì, sì, sì, assolutamente, perché la richiesta è molto più alta delle, in realtà, le case disponibili e sembra quasi una guerra tra poveri, insomma. È una curiosità, e quella fine come hai fatto a uscire dal girone infernale? Ma io non sono ancora uscita perché sto ancora in subaffitto, ho fatto 6 mesi in subaffitto qui e il prossimo mese mi trasferisco in un'altra casa con un altro subaffitto, quindi ancora quanti non siete? Sono uscita. E quanti siete ora in casa? Allora, al momento siamo 5/6, c'è una ragazza, la ragazza che è andata in Erasmus, che mi ha lasciato la stanza e che ogni tanto torna per necessità e quindi quando si ferma siamo in 6. E sta in camera con te? E sta in camera con me. Cioè se condividete la camera, sì, sì, sì, quindi sì. Un subaffitto con coinquilina. Sì, perfetto. E siete tutte studentesse fuori sede? Da quali e quanti pianeti arrivate? Allora, sì, siamo tutte studentesse fuori sede. In realtà una ragazza ha terminato gli studi, ma non si finge ancora studentessa perché per contratto la proprietaria di casa vuole soltanto studentesse e quindi lei, per non perdere la casa, si finge ancora studentessa. Questo è un paradosso incredibile di questa città in cui non si affitta casa agli studenti se non per cifre mirabolanti, però poi non si affitta casa neanche ai non studenti, cioè non si capisce a chi si affitta, sì, a casa, sì, non sì. È chiara questa cosa. E come condividete e gestite lo spazio in casa, tutte voi? È un gran bel gioco di Tetris. Io fortunatamente mi sono allenata molto alle medie in questo giochino e quindi... come tutti noi, direi. Esatto, anche esatto. Se siete un po' più piccoli. Ma... sì, è un gioco di incastri. Usiamo il bagno tutte contemporaneamente. Fortunatamente abbiamo creato un buon ambiente in casa, c'è un bel clima, quindi non abbiamo... questo tipo di problema, insomma, le porte sono sempre aperte, però ecco, sì, ci dobbiamo incastrare. Non è facile quindi trovare anche un momento di privacy per chi volesse cercarlo, quindi vivere comunitario, gioie e dolori. Puoi raccontarci qualche altro aneddoto divertente? Allora, ci sarà qualche momento, anche se avete creato per fortuna un ottimo clima, ci sarà qualche momento un po' di sovrapposizione di vite? O... Beh, sì, sì, sì, sì, sicuramente un lato positivo è che questo ambiente familiare ti permette di tornare a casa e poter raccontare la tua giornata e sapere che c'è accoglienza, no? Non è sempre scontato. Il lato negativo di questa faccenda è che poi non hai i segreti in casa. Perché tutte sanno non tutto. Non ci sono muri. Non ci sono proprio muri. Le porte appunto sono sempre aperte, quindi se anche volessi tenerti un segreto non faresti fatica a farlo. Ecco. E subito lo sanno 6 persone. Sì. 5/6 persone. Però sì. Una coscienza multipla ti aiuta ad affrontare sì. La vita. La mica in Erasmus vista. Poi porta in un altro racconta stato. Infatti i tuoi all'estero, non c'è proprio non ci sono confini. Se vogliamo vederla come una terapia di gruppo, volendo. Bello. Chiediamo anche un pochino, in questa città, tu mi ha raccontato un po' Valeria, segui molto anche tutte le vicende legate alle case occupate, insomma al tentativo di recuperare degli spazi abitativi, visto che è così complesso. Che cosa pensi di questa situazione? Allora sì, in realtà ci provo, Bologna è bella stratificata ed è molto difficile comprenderla appieno. Essendo arrivata qui da poco, insomma, sto ancora capendo effettivamente come funziona. Quello che mi sembra di capire è che ci sono un po' delle priorità sballate, insomma. Agucchi, che è stata l'ultima occupazione, è stata sgomberata il giorno del nubifragio e i pompieri erano presenti quando crollavano le strade in centro a Bologna. Quindi ecco. Mi sembra di aver percepito questa... Un po' di contraddizioni. Sì, sì, assolutamente. Ok. Beh, comunque noi ti ringraziamo per essere grazie stata mille. Con noi, per grazie averci portato il tuo racconto. Ti auguriamo in bocca al lupo per il prossimo, speriamo non subaffitto, forse affitto direttamente. Speriamo. Sì. Con 4 o 5 in una stanza, insomma, per una bella convivenza. Va bene. Ringraziamo Lisa. Grazie, grazie. Grazie Elisa per essere ci vediamo a lezione domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, buon lavoro. Noi no. Ciao. gente butta via tutta la fortuna alle volte. In questo divano non lo abbiamo nemmeno lavato, ma noi lo vedi che è nuovo. Ti ho detto apparteneva qualcuno che è andato. Mettiamoci comodi, proviamo a stare calmi. Mettiamoci comodi, proviamo a stare calmi. Pensiamoci poi, ai morsi, agli scaffi, agli sputi, ai graffi, ai capelli tirati, a tutti silenziati. Ci siamo alzati, facciamo salire questo grosso animale, la smetterà prima o poi mangiarsi la coda, perdere il pelo, la smetteremo anche noi, che io e te siamo un cane, la smetteremo anche noi, di mangiarci la coda, di mangiarci la coda, io e te siamo un cane. La smetteremo anche noi di mangiarci la coda, di mangiarci la coda. Io e te siamo un cane, io e te siamo in coda. Ed eccoci di nuovo qui dopo aver ascoltato un secondo brano sempre scelto dal nostro meraviglioso Daniele Di Feo. Leggenda. Sì. Il titolo lo vuoi dire, Valeria? È Qualcuno che è andato, dei Generic Animal. Bello, non sbaglia un colpo, Daniele. No, non si sbaglia mai nella vita. E nemmeno noi, quindi andiamo avanti con la nostra... Oh, vedo dei segnali dal signor Duccio. Ci siamo? Ha fatto un buon lavoro? I piccioni sono tornati. Che cosa? Chissà cosa ha trovato. I piccioni sono tornati. Quando ti mandi un piccione, no? Ah, sì, scusi, signor Duccio. Quindi, è la modernità, è questo gap spazio-temporale fra Lucca, la Repubblica, insomma. E vabbè, ha trovato degli annunci che possono fare al caso nostro? Si sente poter aiutare? Ci ha dato un occhio, secondo me vanno benissimo. Vanno benissimo? Sì, ah, sì. Bene, sono allora curiosa. I nostri ascoltatori, sei curiosa Valeria? I nostri ascoltatori saranno sicuramente grati di ricevere un po' d'aiuto in questo momento buio per il mercato immobiliare. Esatto. Allora, ci legga. Allora, il primo Porta San Donato, qua vicino. Qui vicino, va benissimo. Allora, praticamente una mia... cara amica contessa, una bravissima persona, mi ha scritto: offre a famiglia lavoratrice, quindi in questo caso uno studente, però. Ah, vabbè, offre a tutti famiglia quanti. Lavoratrice una rimessa per gli attrezzi di circa 8 metri quadri. Ma come una rimessa per gli attrezzi? Aspetta. Munita di letto singolo, di nozza per bisogni e bagno annuale o stagionale a seconda delle signor esigenze. Signor Duccio, mi sembra poco dignitoso questo. E al modico prezzo di primogenito maschio, possibilmente biondo con gli occhi azzurri e sangue di vergine per i suoi bagni rinvigorenti contro l'avvizzimento del tempo. No, senta. Che mi sia una richiesta piuttosto ragionevole. Beh, non direi proprio. Potrei conoscere qualcuno, ma però. Come Valeria potrebbe? Ma non incoraggiamo, scusi, ma non incoraggiamo. Ci siamo. Primogenito. Siamo pronti a vendere primigenito. No, signor Duccio, secondo me lei non ha capito le caratteristiche del nostro pubblico all'ascolto. Se avete delle esigenze, vabbè, comunque. Rimessa per gli attrezzi, andiamo avanti. Questo non ho capito chi me l'ha mandato, però insomma comunque sempre... amici. Qualche conte, contessino. Via Mascarella 8, che è sempre qui vicino. Benissimo, pare, no? Questo sarebbe perfetto. Okay. Allora, ecco qua vuole studente. Affittasi a uno, massimo due studenti. Già. Beh. referenziati con albero genealogico che attesti la nobiltà del sangue, no, con titolo nobiliare acquisito da almeno 4 generazioni. No, signor Duccio, non vabbè, ci siamo. 4 generazioni da poco. È la base. No, Leo, non ti ci mettere anche tu. Noi li guardiamo anche un po' strani in società, quelli da 4 generazioni. Vabbè, perché lei quante ce l'ha di generazioni? Vabbè, vado avanti. Comunque, com'è la casa? Almeno piccolo appartamento di 300 metri quadri. Ma come 300 metri quadri per due? Insomma, quante stanze da letto. Cioè, comunque, munito di 4 stanze da letto, 3 bagni, cucina di rappresentanza e cucina utilizzabile nei sotterranei annessa a cantina e neviera. Ma come neviera? Vabbè, per il gelato, per quelle preparazioni. Comunque, con possibilità di garage per la servitù con corrente elettrica, spese escluse, a soli 15.000 euro al mese. Prezzo di favore, spese escluse. È una cosa così, ora... Ma siamo fortunati ad avere il suo aiuto, sì. Questo può interessare a lei, a garage per la servitù, non so, mi sembra sì, che... Sì, no, infatti, comunque, cioè, secondo me questo è un affare. Ma mi chiedevo, ma con le altre 2 camere da letto? Vabbè, comunque, andiamo avanti. L'ultimo magari... È quello giusto. Via 100-304, questa pure è qui dietro. È qui davanti. Allora, cercasi coinquilino, quindi uno. Per condividere piccolo attico di 400 metri quadri. Uno, bene. Con camera e bagno privato, quindi insomma. Non si accettano ragazzi poco prestanti, ambiziosi e o riottosi, che a volte è la stessa cosa. Sono ben accetti, invece... sportivi, possibilmente di bella presenza, con modi garbati e scarso senso del pudore. Magari mi sembra un altro tipo di annuncio questo. Sì, e magari una passione per le persone anziane. Proprio così. Ma perché ora qua lo spiega, si offre gratuitamente la stanza, quindi io ci farei un pensiero, in cambio del proprio corpo da scambiare con quello di un bell'uomo di 132 anni, con sangue cambiato da poco e dentiera di diamanti. No, perdi tempo. Grazie, signor Duccio. Mi ha detto che gli è capitato qualcuno che si voleva approfittare. No, perdi tempo. E visto che anche noi siamo no perdi tempo, direi, signor Duccio, che la ringraziamo, ma oggi non è stato particolarmente utile. È stato un ottimo lavoro, signor Duccio. Non lo incoraggiare. Chissà che le prossime puntate non vada meglio. Tanto deve stare qua con noi, mi sembra di capire. Devo lavorare. Allora, andiamo avanti. A proposito di lavoro. Agganciati tu, Giulia. Esatto, grazie Leo, veramente un bellissimo gancio questo. A proposito di lavoro, andiamo a scoprire il lavoro di un'altra artista, della prossima ospite. Di un'altra scultrice, tutta una rete di scultori, però sempre legato al nostro tema dell'abitare, esplorato nel quartiere dell'Accademia di Belle Arti. Vogliamo presentare Valeria, chi è la nostra prossima e ultima ospite della puntata? Assolutamente sì, è una cara amica e scultrice, che tra l'altro ha da poco esposto assieme ad un'altra artista, Beatrice Matassi, la loro installazione Casa Amichevole nei pressi di Galleria Più. Che è il lavoro di cui ci parla adesso. È uno dei vari lavori. Ok, nell'intervista. Vogliamo, come sempre, ormai è una regola, presentarla con il tuo linguaggio poetico, vai. Abitare ed occupare lo spazio pubblico, farne un nido, trasformare l'angolo della strada in uno spazio ospitale. Questa è solo parte della ricerca di Lucia, studentessa del biennio di scultura, che nel 2021 decide di intraprendere un percorso di ricerca artistico e personale, provando a seguire un gruppo di persone senza fissa dimora nella loro quotidianità, conosciute tra Via Belle Arti e Piazza Puntoni. Insieme a loro vive le giornate, seguendoli anche di notte al parcheggio Staveco, un luogo a pochi metri da Porta Castiglione che, con il buio, ospita e permette a chi ne ha più bisogno di abitare, di trovare casa. Proprio grazie alla scoperta di questa realtà urbana e sociale, riesce a trovare e comprendere un nuovo concetto di casa. Bene, e noi abbiamo incontrato Lucia e le abbiamo fatto alcune domande per esplorare insieme la sua esperienza e il suo lavoro. Partiamo dalla prima domanda. Le abbiamo chiesto: come è stata influenzata la tua ricerca da questo quartiere? Come hai iniziato a sviluppare il tema della casa e più in generale dell'abitare? Sentiamo che cosa ci ha risposto. Ho In questi 3 anni che sto a Bologna ho potuto, diciamo, avere confronto con diversi tipi di ambiente, da quelli artistici, quindi un po' più borghesi, a quelli di strada, perché diciamo dopo, soprattutto dopo che mi è stata negato l'accesso nella mia casa, mi sono trovata a vivere in strada. Lì, diciamo, all'inizio il primo sentimento è essere stata arrabbiata, poi questo sentimento di solitudine, di angoscia, di paura. Poi in realtà ho incontrato delle persone che ci vivevano da più tempo e loro mi hanno insegnato appunto a riconoscere ogni spazio come un luogo possibile, capace di farti sentire a casa. Un'altra domanda che le abbiamo fatto è come si incontrano queste due dimensioni di casa e scultura nel suo lavoro. Nel 2021 con la mia compagna e amica Beatrice Matassi abbiamo realizzato una casa, una nicchia, un nido fatta di materiali ecologici e quindi diciamo era senza maniglie, senza serrature, un luogo accessibilissimo a chiunque, cioè gente di strada e non, che ci voleva sentire appunto al sicuro in un angolo della città. Infatti sì, era posta in un parco dove in realtà ci dormivano anche persone. Sfruttata, no, ovviamente non abbiamo visto, perché appunto per creare quello spazio di privacy non volevamo mettere telecamere o robe simili, perché sennò si perdeva secondo me questo senso di privacy, no? Ci puoi raccontare che forma prende il tuo lavoro e in che luoghi lo hai presentato? Diciamo, interventi che ho fatto, mi sono ispirata ad alcuni architetti come Shigeru Ban, che prende comunque, concretizza il discorso di Francesco Carreri, quindi dell'architettura che nasce in realtà nomade e quindi che dobbiamo andare a recuperare con gli ideali. Infatti lui costruisce tutte case modulari interamente di cartone. Poi, diciamo, la mia ricerca è andata avanti e ho voluto, appunto seguendo gli ideali di Shigeru Ban, creare queste poltroncine di cartone modulari che erano appunto trasportabili in modo molto rapido e ricomponibili, e quindi ho creato questo salottino di cartone e li ho messi in vari punti della città, partendo dal punto centrale che è Piazza Maggiore. L'ho posto proprio al centro senza chiedere alcun permesso, perché volevo creare un'interferenza che andasse a creare un luogo di incontro, ma anche un luogo più familiare, tipo alla stazione, che è per eccellenza un luogo, quindi un luogo di passaggio dove la gente parte, aspetta, parte, però in realtà non è accogliente. Quei luoghi che in realtà c'è realmente gente che dorme in strada sotto un portico vicino a una chiesa e un altro portico, e l'ho posto lì, e lì diciamo proprio ho capito che il problema è di visibilità. Quindi cioè, se lo fai in luoghi dove l'occhio sovrano, tra virgolette, non lo vede, cioè non lo può lasciare all'infinito. Invece in Piazza Maggiore creava scandalo perché ci faceva lì un salottino di cartone in mezzo a questa piazza. Ringraziamo Lucia. Grazie Lucia. Grazie grande. Lucia. Grazie per averci raccontato il suo lavoro. E ragazzi, direi che siamo un po' arrivati alla fine di questa puntata. Purtroppo sì. I 50 minuti finalmente, no? Stanno per scadere. Finalmente raggiungiamo i 50 minuti con la nostra puntata Abitare. Ringraziamo Valeria Scardino. Io ringrazio voi. Com'è andata? Bene, dai. Bene. Tutto bene. Sì, sono convinta. È stato bellissimo, ma essendo il primo approccio per me, sono un po' tesa. Ti sei rilassata. Signor Duccio, la ringraziamo. Grazie a voi. È difficile definire un contributo fondamentale, ma comunque un contributo. Lo chiamerei lavoro. Io lo definirei fondamentale. Fate squadra. Grazie Valeria, noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Alle 10.30. Sempre con 50 minuti di riparazioni, sempre su Radio Città Fujiko. Buona giornata. Ciao.